Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, in questo venerdì 7 luglio. 7 di luglio, venerdì. Si lavora oggi, domani, come sempre. Tu dici 7 di luglio, io dico venerdì. Venerdì. C'è questa diatriba tra me e Oscar, perché sapete che anche il nostro Lorenzo Nespoli dice che vuole andare in pensione a 40 anni. Punta a una pensione. No, ha detto 40 come una concessione di pensione, lui anche un po' prima. Sarebbe meglio 38 se si riuscisse a fare qualcosa per il nostro. Doveva nascere ai tempi della DC, della Prima Repubblica. Invece Oscar dice: ma perché avete questa idea del lavoro come un qualcosa di una costrizione, un qualcosa. No, anche perché una condanna. Il tema era stato introdotto, dicevo. Allora l'unica alternativa, diceva in Nespolaccio, è morire prima. Dico: mamma mia, cioè morire come alternativa a lavorare addirittura. No, perché Oscar invece di quelli, ve ne rendete conto, si vive sempre di più, quindi bisogna andare in pensione a 70 anni, poi a 72, poi finiremo come in Giappone a 85 anni 90. Io voglio essere attivo fino all'ultimo momento della mia vita. Ma sì, attivo su una bella barca a vela. Sì, attivo. Ragazzi, ma voi c'avete questa idea della pub, ma è la generazione del fumo, il joint, capisci? Ma è tutto coerente. Io lo capisco che se uno ama Bob Marley è così. È così. Ma io lo dico con rispetto assoluto. Poi, per carità, sarei anch'io, questo poi la scelta di fondo. Un sistema in cui c'è l'uscita libera, però a quel punto non mi si viene a dire che bisogna integrarla coi soldi. E lo sapevo che bastava. ecco la nube che inizia a venire. Smettila, dalla regia. Smettila, che è tutto buona, dire, roba buona, però, ragazzi. Sonorizzato, è tutto assolutamente tenuta stagna, quindi buona, la nube buona. Rimane lì in regia. Maresciallo, stiamo scherzando, non vorrei però infatti. Sognano l'irruzione, no, non a quest'ora. Non a quest'ora, un po' più presto, magari alle 5. Queste cose all'alba si fanno come se fosse già molto. Allora, no, piena libertà, No, lo stiamo dicendo perché naturalmente sullo sfondo c'è la protesta animata dall'informazione che soffia sul fuoco pur di fare qualche copia ascolto in più, perché c'è l'adeguamento automatico che scatterà, perché questo insomma, si va in pensione parte a 70 anni, dai, forse. Man mano che l'attesa di vita aumenta, l'adeguamento automatico della riforma delle pensioni fornite aumenta, sacrosanta, già oltretutto dalla linea. Detto tutto questo, io penso che bisogna accettare che come giusto. Dopodiché, uscita libera, sì, però ognuno a quel punto non si lamenta, non chiede allo Stato e al contribuente a me di integrargli la pensione se è troppo bassa. Quindi, caro Nespoli, puoi andare a 38, a 40 anni ma anche in pensione, ma non chiedere più di 120 euro. 120, 140, insomma, più o meno al così. Mese. Questo è. Anzi, Nespoli, ma tu sei pure in solidarietà qui al Sole 24 Ore, quindi regolati, perché diminuisce pure il monte totale contributivo. Allora, detto tutto questo, ragazzi, ci sono anche le preoccupazioni qui del nostro gruppo, non è che siamo immuni. Comunque, noi non siamo immuni, noi al massimo siamo immunodeficienti. Allora, 7 luglio, un santo, in teoria il santo classico è San Claudio, quindi Liguria, però il santo vero, perché è Antonino Fantosati. Voi direte: ma chi è Antonino Fantosati? È un francescano dell'Ottocento, italiano, nato a Trevi, che parte per la Cina, fa il missionario nel 1867, riuscirà, lui come tanti, con fratelli, con sorelle, clero, bisognava a quel punto in Cina, in quella parte della storia, assumere nome cinese, lavorare come tutti, eccetera, eccetera. Insomma, non si poteva stare molto tranquilli. Sì. E comunque finisce lui, come circa 20.000 cristiani, ce lo siamo dimenticati, ucciso nel 1900 quando c'è la rivolta nazionalista dei boxer, e a quel punto si fa piazza pulita praticamente dell'intero clero cristiano in tutte le province della Cina, quindi una vera strage di massa. E lui anche, e quindi lui insieme a tutti i martiri cinesi del 1900, è giusto ricordarlo, perché tutte queste pagine di storia ce le siamo tutte dimenticate. Volevo dirti che oggi io faccio i miei auguri di compleanno formalissimi, sentitissimi, all'ambasciatore, scrittore, poligrafo, anti-americanissimo, con la sua idea di Europa dell'Atlantico e agli Urali, Sergio Romano, che fa gli anni. Però io volevo ricordarti due nomi di cui ci sono grandi fan, sì, perché che compiono gli anni, perché, ma io so già che non, il del primo non ti dimenticherai di farlo, perché ho visto che ti sei riscritto al suo fan club, Toto Cutugno, e quindi io so che tu sei... No, sto scherzando. Io stavo pensando veramente a quale fan club mi sono iscritto. Toto Cutugno. Ma poi volevo ricordarti che oggi, visto come hai chiuso la rassegna stampa, è il compleanno in cui tutti voi milanesi siete obbligati a festeggiare il vostro nuovo arrivo straordinario, perché oggi compie gli anni Antonio Donnarumma. Antonio Donnarumma oggi compie gli anni. Conosciuto come il fratello. Come il fratello. E quindi compie gli anni e vi tocca fargli gli auguri. Ci tocca dargli un milione di euro intanto l'anno. Vabbè ragazzi. Basta sta storia di Donnarumma, la maturità, basta. Ma io appunto dico, non meglio se che ne parliamo può più del fratello. Più ormai, no, non se ne può più. Forse infatti il dibattito era più a dire, ah che bello, vedi, tengo famiglia. Tengo famiglia. Questa storia che tutti a dire Donnarumma deve essere di esempio per le nuove generazioni. Ma lui è l'esempio che non si dimentica dei familiari. Pensare che sia un esempio un calciatore, cioè, l'unico esempio che può dare Donnarumma è parare all'incrocio contro la Juve o contro il tuo Torino, fare una bella parata e... cioè il valore che gli attribuiscono e farci vincere una partita è tra i migliori a farlo, tra l'altro, perché se no non esisterebbe. Quello deve fare, basta sta storia del diploma, e si diplomerà l'anno prossimo. Resto non vorrei ricordarti, se no mi dicono che sono antiventino, che il grande Buffon il diploma l'ha comprato, ma è storia, e lui stesso l'ha ammesso dicendo che è stato uno dei suoi più grandi errori nella vita, eppure non per questo Buffon non è un grande campione, non è un pessimo investitore, vabbè, ma questo è un altro po' di mani. Vabbè, anche un pessimo investitore. Ha dilapidato i patrimoni, e talvolta lo ha fatto, io glielo riconosco, con la generosità di voler tenere in piedi su imprese, però secondo me è mal consigliato. Quella che capita spesso ai calciatori, ti ricordi un grande campione del Milan, il pasticcio che ha fatto perché seguiva pessimi consiglieri della moglie sull'arte, i quadri. Sì, Franco Baresi, cioè, un grande campione del Milan, cioè... Il capitano, sono d'accordo. Il capitano con la C maiuscola, altro che no. E quello, per esempio, a me dispiace umanamente tantissimo, perché a volte si vedono poi i campioni che sono mal consigliati, cioè si capisce che si fidano di anche ingenuo. A me non è un peccato. No, attenzione, dico, io ho detto il capitano, altro che Totti. Non lo dico nei confronti dei tifosi della Roma, ma nei confronti di Valerio Rocchetti, che ci ascolta a Roma. È tecnico ti è rimasta di Roma, qui questa 24, cosa. Solo per lui, dico altro che Totti. Totti è un grandissimo campione, ma solo per Valerio. Dico altro che Totti, ti è rimasto Franco Baresi, il capitano. Gola. Allora, dai, parliamo di comunque, cose bellissima molto giornata sui giornali, ci sono cose strepitose. Dai, c'è Trump che ha riscoperto la NATO solo perché era ospite di Varsavia. Sì, di Varsavia. Cioè, lui, quando si parla della NATO con la Merkel, attacca la NATO, la Merkel. Quando sta nel paese più populista, insieme all'Ungheria, il populista, eccetera, eccetera, allora riscopre la NATO contro Putin. È un presidente concavo e convesso. Comunque è fantastico. Oggi c'è una bella intervista di Paul Berman che dice: bellissimo discorso quello di Varsavia. C'è un piccolo particolare. Domani Trump potrebbe dire l'opposto, quindi però basta che ce lo ricordiamo. Siamo ironici, sì, ma però insomma, guardate che non è molto diverso da come vi stiamo restituendo l'impressione di una presidenza Trump, un po' così, ma comunque vedremo il G20 con la Merkel come purtroppo andrà. Invece c'è poco da essere ironici, insomma il tema è vero che rimane sui giornali è quello dei migranti. Allora adesso Tallinn, tra l'altro c'è questo paradosso per cui non è sul tavolo delle trattative la questione dei porti da aprire in Europa, no perché Tallinn. Ci hanno detto no, quindi sì, ma no, ma non era neanche in agenda, diciamo, non però l'hanno neanche messa ancor prima di arrivare, e tutti i paesi europei dicono non sognate di portare qui i migranti. E poi sui giornali c'è anche questo aspetto che forse dovremmo trattare, Oscar, che si racconta che la missione Triton è stata firmata dall'Italia dicendo ok, accettiamo che vengano tutti portati qui, poi verranno ricollocati in Europa, solo che ricollocamenti non ci sono, quindi l'idea che ci abbiano rifilato un paccone, un bel pacco come quando ci vendevano, ho detto prima, le TV finte con i mattoni dentro l'autogrill, la sensazione un po' c'è, cioè sì sì, fatele arrivare lì, noi vi diamo soldi, beh, poi facciamo i ricollocamenti. Sempre alieno a questa descrizione classicamente italiota di dire ci hanno rifilato, se si è in due. Vabbè sì, certo, ci siamo fatti rifilare. Ma Bonino ha ricordato che abbiamo accettato questa regola, ci dovevamo pensare prima, chiaro, forse. Ecco, chiaro. Ecco, io seguo la versione rifilato. Bonino autocritica. No, ci ha rifilato nel senso che poi lì, quello che prende in autogrill la TV con i mattoni è lui, anche il Barbione. Ecco, no, ma è chiaro. Lui è il primo, secondo me, ecco, questa è la mia opinione, cioè io sono un po' alieno. Questo non c'è da dire, c'è una macchinazione ostile. Il punto è che visto che c'è il no e visto che fino alle elezioni tedesche la cosa non si schioda, siamo realisti, tentiamo di dare agli ascoltatori in sintesi una roba. Siccome fino alle elezioni tedesche la Merkel non cambia su questo ed è d'accordo con Macron, quindi figuriamoci, il problema è durante l'estate Gentiloni se la sente di aderire alla linea dello scontro duro con l'Europa, Renzi ieri è uno dei tre punti della sua direzione, cioè a costo di uscire unilateralmente quest'estate dalle due missioni europee per dire noi iniziamo a respingervi verso altri porti non italiani. Ecco, ce la sente l'Italia di un gesto così traumatico? Perché guarda, questo, per fermare il corridoio centroeuropeo, i paesi centroeuropei hanno fatto gesti durissimi. L'Italia se la sente, è giusto? Sui giornali. Io sì, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, chiamateci per dirlo 800240024. Io ho molti dubbi, cioè è una cosa di una grandissima durezza. Se vogliamo essere coerenti, dovrebbero essere disposti anche a farlo. Però vogliamo dialogare con chi ha uno sguardo anche diverso, nel senso che ha lavorato per tanti anni alla UNDP, cioè United Nations Development Program, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Certo. Quel programma di sviluppo a cui ha fatto riferimento anche Bill Gates con la famosa frase ieri quando ha detto a un giornale tedesco basta solidarietà fine a se stessa, perché guardate che la generosità, più li incoraggiate a venire con la generosità, più incoraggio le persone a venire sono distolti dall'idea di darci una mano a casa loro. Ecco, con noi c'è Jean Fabre che salutiamo e ringraziamo, buongiorno e grazie di essere qui con noi Fabre. Buongiorno. Intanto vogliamo partire dalla questione Bill Gates, la frase messa così, la generosità fine a se stessa produce, esorta le persone a venire, è una frase impietosa detta da uno che è anche un filantropo, fa tante cose, miliardi di dollari fa insieme tante alla cose moglie, per l'Africa, Melinda. Che pensa Fabre? Ma quello che ci è mancato per tantissimo tempo è l'intelligenza di gestire le situazioni. Siccome abbiamo la tendenza a reagire quando è troppo tardi, quelli che avvertono dei pericoli che stanno arrivando non sono spesso molto ascoltati. Io mi ricordo che anni indietro abbiamo dovuto batterci per creare dei bilanci di aiuto pubblico allo sviluppo, cioè siamo in un mondo aperto, che vogliamo aperto sul piano economico, con scambi economici praticamente senza frontiere, e allo stesso tempo vogliamo chiudere le frontiere per la circolazione della gente. Ma se la gente non ha il mezzo per sopravvivere nel posto dove si trova, o se ci sono dei conflitti, delle guerre, eccetera, si sono buttati sulle strade, basta pensare che ogni giorno guerre e persecuzioni sfollano 34.000 persone. Noi non ce ne rendiamo conto spesso perché la maggior parte della gente non va fino all'Europa o fino agli Stati Uniti, fino ai paesi più ricchi. In certi posti devono accogliere dei rifugiati, che siano rifugiati di guerre o di situazione economica disastrosa o di situazione climatica disastrosa, in una quantità che non sarebbe giudicata sopportabile altrove. Nel Libano in paesi di questo tipo hanno una quantità di persone che vengono dall'estero che sarebbe l'equivalente in Italia di 20 milioni emigrati. Sì, quindi ci dobbiamo tutto mettere in proporzione. Dobbiamo tutto mettere in proporzione. Mettiamo le cose in proporzione, ma nel 1970 all'ONU che era votato una risoluzione secondo la quale i paesi ricchi dovevano nel 75 o a partire dal 75 dedicare ogni anno il 0,7% della propria ricchezza in aiuto pubblico allo sviluppo. 0,7%, facciamo il conto sul mio stipendio, che cosa rappresenta davvero? Se do il 0,7% per aiutare gli altri a crescere, ad essere capaci di rimanere sul posto dove si trovano, vivendo bene sul posto dove si trovano, chi può dire che non può dare questo 0,7%? Non l'abbiamo fatto. E adesso dice, no, è chiaro, la situazione attuale. Quindi Gian Fabre ci dice, paghiamo il prezzo. Cioè, paghiamo il prezzo del non avere investito in sviluppo in quei paesi. E questo è quello che ci dice Gian Fabre. A oggi la situazione è questa, perché noi non possiamo dire agli italiani, però ragazzi, non possiamo, dobbiamo restare l'unico corridoio rimasto aperto per l'Europa. Perché questa è la realtà attuale, l'unico corridoio, tanto per l'asse Africa centro-occidentale che centro-orientale, cioè tanto dall'asse Nigeria-Niger-Mali che è quello che fa Eritrea, Sudan, eccetera, passando per la Libia, l'unico corridoio oggi aperto è l'Italia. Allora, sì, certo. È chiaro che si metta nei nostri panni e veda, io lo so, ha un'esperienza dell'Italia, è lunga, cioè lei immagina in questa condizione che oramai è chiarissima agli occhi degli italiani, tentare di rispondere alle loro preoccupazioni, perché c'è chi ha soffiato politicamente sopra, lei lo sa come funziona la politica, eh? Allora non gli puoi dire guarda a quanti profughi ci sono nei campi libanesi e in Giordania, perché la risposta dell'opinione pubblica è vai a quel paese, sì, chi se ne frega, purtroppo è così. E allora il punto è, visto che l'Italia dice riapplichiamo la Convenzione internazionale del diritto del mare, il protocollo di Amburgo, quindi leggi internazionali, non che ci forgiamo un diritto a nostro uso e consumo o convenienza, però l'Italia pone il problema, è un po' dura buttar giù che gli altri, cioè la Francia, gli altri paesi europei, la Spagna che ha chiuso ogni canale attraverso il Mediterraneo di arrivo di immigrati, ci dicano la risposta nostra è no. Perché quando il problema fu durissimamente, non convenzionalmente posto dai paesi centroeuropei che hanno costruito mura alle frontiere con le truppe due stati fa, per dire alla Merkel o cambi idea o ce ne freghiamo, te la facciamo cambiare, l'effetto è che quelle azioni hanno ottenuto poi quello che si prefiggevano. Allora, questo è il dilemma, ma non perché noi siamo indifferenti alla questione umanitaria. Cioè oggi quando il Presidente della Camera Boldrin dice non prendetevela con l'ONG sulla Camera, ecco, io la capisco, però agli italiani quello che arriva adesso è c'è un governo che ha preso un'iniziativa. Che cosa è giusto secondo lei di quell'iniziativa, Fabre, e che cosa secondo lei ci si può aspettare che l'Italia faccia? L'Italia di Gentiloni al no europeo, lei che dice? Io reagivo prima alla dichiarazione di Bill Gates, ma in realtà lei ha perfettamente ragione, cioè non si può lasciare l'Italia sola ad affrontare questi problemi. E che cosa significa aver costruito l'Europa se non è unita di fronte a una situazione del genere? Cioè l'Europa dovrebbe dedicare delle risorse per aiutare ad accogliere queste persone, dovrebbe organizzare l'accoglienza, perché l'accoglienza è doverosa quando la gente non sfugge solo a situazioni economiche difficili, ma situazioni di guerra, di conflitto, dove si muore. Immaginiamoci se durante la Seconda Guerra Mondiale nessuno avesse accolto chi doveva sfuggire dalla propria situazione, ma non abbiamo un'Europa che funziona oggi. Abbiamo dei paesi che sono che guardano il proprio interesse, ma tutta la società è organizzata in questo modo, tutto è organizzato sulla competizione tra gli uni e gli altri a livello individuale, a livello di imprese, nell'economia, a livello di stati, mentre siamo in un mondo che non è fatto per quello. Ci vogliono delle misure d'urgenza per poter infatti accogliere chi sfugge a situazioni di guerra, di conflitto, di persecuzioni, e allo stesso tempo investimenti per aiutare, ma questi investimenti di sviluppo sono a lungo termine, non risolvono le situazioni immediate. E dunque oggi è ovvio che tutti si devono fare carico di questa situazione. Domani arriva ben peggio, fino al 2050 avremo 250 milioni di persone che si saranno spostano sulle strade per il cambiamento climatico. Anche perché sennò ben altro che le guerre e le persecuzioni o la povertà attuale. Perché Jean Favre, però quello che lei vede, se vede anche i giornali italiani, anche se è una prospettiva internazionale, è che appunto c'è la controminaccia italiana di fronte a un'Europa assente, allora noi usciamo dal Triton, no? da questo progetto. Cioè si viaggia solo per grandi contrapposizioni, ma non c'è un disegno comune, no, per risolvere questa situazione. Ma secondo lei l'Italia è stata fregata, o ci siamo fatti fregare, o siamo stati ingenui in questo accordo per cui li accogliamo e loro non li ricollocano? Certamente l'Italia è fregata, perché l'Italia si trova geograficamente, direi, nel posto sbagliato. È vittima della situazione geografica e nient'altro. Come la Grecia, tra l'altro, per altri versi, si trova anche in difficoltà. Questo non è giusto. Se l'Europa non è capace di far fronte a questa situazione come Europa, l'Europa non esiste. Constatiamo il decesso dell'Europa, perché l'Europa esiste di fronte a situazioni concrete, non è una cosa teorica. Teoricamente l'Europa va bene, ma in realtà l'Europa non esiste oggi. Bisogna costruirla, bisogna capire se abbiamo la volontà o non abbiamo la volontà di costruirla. L'Italia da sola non può risolvere il problema, è impossibile, va affrontato in modo diverso. No, ma è chiaro, l'Italia solo non può risolvere il problema è che se gli altri non vogliono cooperare a risolverlo rimane una situazione... Rimane che adesso nel corso di quest'estate Gentiloni è di fronte a un'alternativa secca. Carattere, da quello che conosciamo, Gentiloni non è proclive ad assumere una posizione. Sì. Forse Minniti cercherà... Però Minniti oggi, il titolo di Repubblica fa capire... No, io fino a questo momento Repubblica ne ha dato una buona interpretazione dell'evoluzione di Minniti. Io per questo dico, non è che lo dice Repubblica, però Minniti a pagina 2 dice: decideremo da soli. Questo è il titolo che Repubblica sceglie come sintesi del governo italiano. È complicato e si provocheranno reazioni dure. Però attenzione, è la strada con cui i paesi centroeuropei, il blocco di Visegrad, come si dice, ha messo la Germania contro il muro. Sì. Ecco, è inutile che ci illudiamo. Però per concludere, Jean Favre, invece, per tornare al tema centrale, lei richiama, se ho capito bene, anche i nostri errori, i nostri dell'Occidente, del mondo, che non ha investito nulla nello sviluppo in quei paesi da cui poi le persone provengono, e ora si lamenta del fatto che le persone arrivano. Questo è insomma questo è il punto centrale. Voglio dire, va bene che noi siamo confrontati oggi a una crisi senza proporzioni, sì, in precedenza nella storia recente dei nostri paesi, ma se continuiamo sulla stessa strada domani sarà ancora peggio. Avverto che il cambiamento climatico muterà sulle strade una quantità di persone che ben superiore a quello che vediamo oggi, e dunque è inutile continuare a chiudere gli occhi. Sì. Ma secondo lei l'uomo, certo, ma secondo lei, cioè, questi sono straordinari argomenti da affrontare in dibattiti, in simposi all'interno delle Nazioni Unite, dello UNDP. Però l'uomo della strada, cioè l'uomo che vive la realtà di tutti i giorni, cosa percepisce di questa responsabilità morale, chiamiamola così, degli stati? Ma se mi posso permettere, senza fare il prete della situazione, la responsabilità morale che abbiamo di condurre le nostre vite normalmente, cioè in modo dignitoso, ce l'abbiamo tutti in ogni momento, che uno sia educato o non educato, che sia ricco o povero, queste cose umane le può capire. E abbiamo gestito il mondo in modo imbecille, se posso dire, perché sapevamo di queste cose tantissimo tempo fa, e poi non facciamo le cose che si devono fare. Costruiamo un'economia che è fatta per sfruttare le differenze che esistono nel mondo. godiamo di tantissime di queste cose gradevoli, che ci rende il fatto che facciamo fare i nostri vestiti in Cina eccetera, giocando sulle differenze. Non vogliamo fare un mondo equo, un mondo responsabile nel quale ciascuno prende cura degli altri, non forse per una visione morale, ma perché è buona la gestione, certo, della situazione. È tempo di farlo. È tempo se non di lo farlo. Vogliamo fare oggi, domani sarà ancora peggio. Vabbè, insomma, queste, queste sono certo. Per oggi, però dobbiamo investire per domani. No, no, ma queste sono le responsabilità morali, insomma, a cui lei ci richiama, insomma, dopo una lunga vita. Ma chiaro, chiaro, pratiche. Chiaro, una, dopo anche una lunga vita come direttore, insomma, del UNDP, del United Nations Development Program, Gian Fabbra ci richiama anche a questo. E noi la ringraziamo molto perché ci ha messo tanti elementi di discussione, sia pratici dell'oggi, sia, come dire, della visione che abbiamo del, dell'economia del mondo. E di questo magari discutiamo anche con i nostri ascoltatori tra un attimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, 8 e 48 minuti, caro Oscar. Allora, siamo qui, ci sono gli ascoltatori. C'è Salvatore da Milano che ci chiama. Buongiorno, Salvatore. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. No, di aver chiamato lei. No, non spieghiamolo, sembra che sono concordate le telefonate. Le persone chiamano e lasciano il loro numero di telefono e poi noi richiamiamo per una protezione. Infatti ho specificato, grazie di avermi richiamato. Richiamato, va bene, dica Salvatore. Dunque, io in pratica vorrei dire una cosa, anzi due o tre cosine. Dunque, posto che diciamo le affermazioni della Bonino non sono state smentite da nessuno, quindi si presume che siano vere. No, ma sono vere, guardi, ce l'ho fatto. Sono vere. Quindi a questo punto il nostro ministro degli interni ci fa una brutta figura, perché lui è da giorni che va dicendo: io non capisco perché tutte le navi portano i migranti da noi, spero che almeno una nave porti i migranti in un altro paese. E invece lei dice: l'abbiamo chiesto. Ma ha accettato, più che chiesto, ma ha accettato. Sì, e quindi a questo punto qua lui non si capisce, o non lo sapeva, e quindi no, oppure lo sapeva, fa finta di non saperlo. E vabbè, è chiaro che i ministri devono essere diplomatici a volte. Però nella complessità dell'accordo, peraltro non dire, era lui il ministro, ricordiamo. Esatto. Né era Alfano. Nella complessità dell'accordo, cioè, sì, abbiamo accettato che venissero qui per poi essere ricollocati. In cambio ricollocati, del fatto che c'era una contestuale ricollocazione. Salvatore, capisce che la ricollocazione invece l'ultimo anello saltato. Manca. E quindi siamo rimasti fottuti. Questo è tecnicamente quello che è successo. Però per Salvatore, dire, ha concluso il suo intervento? Sì. No, volevo dire una cosa. A proposito di ricollocazione... Dunque, sono previste quella roba lì solo per quelli che hanno diritto allo status di rifugiato. Sappiamo benissimo che la maggior parte, diciamo, no, infatti ha ragione, la maggior parte non rientra negli accordi di ripartizione cioè di coloro che provengono da paesi che hanno diritto allo status di rifugiato, ma comunque abbiamo migliaia e migliaia di eccedentaria anche nella quota di coloro che rientrano la definizione di aventi diritto all'asilo. Per esempio, migliaia di eritrei in più che vengono da uno dei due corridoi africani, cioè quello che passa per il Sudan, e anche quelli non siamo riusciti a constatare che l'Europa li ha ricollocati come aveva preso l'impegno. Per dire, dice, non sono i grandissimi numeri, certo, però intanto sono alcune decine di migliaia, neanche di quel tipo lì è avvenuta la ricollocazione, sono rimasti in Italia. Ebbene sì, c'è Franco che ci chiama invece da Venezia. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno a tutti agli ascoltatori. Eccoci. No, io volevo intervenire su un altro dei temi che avete toccato stamattina, quello delle pensioni. Ed ero incuriosito da una cosa. Si continua a parlare in maniera assolutamente dogmatica di questa aspettativa di vita. Ma chi la calcola? Secondo che criteri e che metodi? Guardi, questo è una cosa statistica. Non so, scusi, aspetti un secondo però, perché questa è l'altra cosa italiana. Cioè l'Italia è riuscita a fare, non c'è un numero che in Italia valga, perché ognuno alza il ditino e dica figuriamoci. No, guardi, ci sono dei criteri statistici standard, italiani e condivisi internazionalmente. L'Istat non fa altro che constatare la vita media della popolazione, la mortalità annuale, i nati, eccetera, eccetera. Spalma constatando ogni anno precisamente e ogni 10 anni ritardando sul censimento. Quindi guardi, il criterio statisticamente è affidabile. Non provi a dire ci fregano con questo, perché non è perché così. Perché lei ha questo sospetto, Franco, cioè a dire come la calcolano, chi lo dice, eh? Ha questa idea che così ci fregano e aumentano l'aspettativa di vita e aumentano l'età pensionabile? Le medie normalmente servono per stimare qualcosa che altrimenti non è facile o è difficilissimo stimare, nel senso che si utilizza la media quando non si può fare diversamente. Nel caso delle pensioni, si potrebbe, secondo me, introdurre tranquillamente, calcolare tranquillamente un coefficiente familiare. Mi spiego, da 3 generazioni la mia famiglia non arriva a 70 anni. Non c'è quindi applicarlo caso per caso come coefficiente, capisce che è un po', scusi, un po' complicato, però allora, è una posso dire una cosa complicata. La cosa vera, le alternative ci sono, e come l'innalzamento coatto, che è stato necessario perché altrimenti non tenevano i conti, per essere chiari, perché altrimenti non sarebbe stato necessario. È stato necessario perché abbiamo trattato un sistema previdenziale nei decenni in cui si cresceva in media del 3% reale davvero, e in cui la politica ha detto ma sì, calcoliamo gli ultimi 3 anni di stipendio al 90%. Poi quando sono cambiate queste condizioni di contesto e i conti hanno iniziato ad andare a quel paese, la politica, col cazzo che se l'è sentita dire agli italiani, bisogna cambiarla. Cosa? Con quello, perdonami, perché poi mi dicono che io sono antipolitico, la realtà è questa. Allora, il punto è, sa qual è l'alternativa? No, caso per caso è un po' difficile. Sì. O accettiamo tutti di andare in pensione con un metodo non solo contributivo, è già così per chi non aveva 18 anni diversamente dalla riforma Dini, ma contributivo a capitalizzazione, cioè spezziamo la solidarietà del sistema a ripartizione, per cui coi contributi di Giannino e di Milan si pagano le pensioni retributive ogni mese, perché così è attualmente. La gente crede di maturare un capitale versato, non è così, non maturate niente, i vostri soldi si utilizzano ogni mese. Allora, o accettiamo davvero il contributivo ma capitalizzazione, e allora va benissimo, il suo discorso è risolto così. Però, seconda cosa, accettiamo l'idea, libertà di andare in pensione, ma con le pensioni basse che c'è, senza chiedere allo Stato poi di integrarci. Capito, Lorenzo Nespoli, no? Che vuoi andare in pensione a 38 anni con 3.000 euro di pensione. No, il problema, dice Franco, è chiaro che l'aspettativa di vita è una statistica, se non la statistica coglie nella media, e quindi Franco, dal suo particolare punto di vista, dice la mia generazione da tre generazioni non viviamo più di 70 anni, però come dire, è un'aspettativa di vita. Ma la media significa che poi ci sarà chi invece arriva a 90, eccetera. Da 3 generazioni a 90, capisco che dal punto di vista di Franco questa è una percepita come un'ingiustizia o una visione miope. Detto tutto questo, rispetto ai 66 anni e 7 mesi che sono vigenti oggi, l'età media ancora della maturazione del rapporto previdenziale in Italia è 61 anni, quindi poi piantiamola lì di dire che stiamo lavorando fino a 80 anni, perché non è vero. Beh, fino a 80 anni... Non è vero, no, anche questi sono dati reali. Fino a 80 anni, cioè neanche. No, io la pensione non ce l'avrò, Giappone, quindi io devo sperare di riessere così lucido che qualcuno mi paghi per lavorare. Tu vorresti fino a 80 anni. Non voglio andare a sentire Bob Marley nelle nuvole. Ma perché uno deve andare a sentire? Ma c'è questa idea, pensionati, ma voi ascoltate Bob Marley nelle nuvole? Sì, non è che sei uno. Quelli della tua generazione faranno così. Ma che figurati. Sto scherzando, dai, figurati. No, figurati. È automatico, io lo so. E tu dici Bob Marley track. Certo, è un Bob Marley track. Tra l'altro hai letto che sui giornali raccontano che la Giamaica, visto che c'è una grande produzione di marijuana, è innegabile, sta cercando di utilizzare questa grande produzione per scopi medici a livello mondiale, ma il mercato mondiale non decolla, non sono in grado di fare delle economie che riescano a valorizzare questo prodotto a livello medico. Beh, capisci che per quanto sia marchio storico, ognuno preferisce l'autoproduzione. Chiediamo a Valentino dalla provincia di Verbania un attimo di pazienza, perché andiamo in onda fino alle 9:30. Riprendiamo da lui dopo il giornale radio delle 9. Www.radiotrenitalia.it. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, sono allora, le 9:05 minuti. Allora, ti è molto piaciuto Donnarumma nella versione Maurizio Milani. Maurizio Milani, d'accordo, Maurizio Milani sul foglio. Sì, mi è piaciuto, foglio. Non ci posso fare niente. Questa ipotetica chiamata dell'agente di Raiola al ministro Fedeli, che è anche sul tema. Vabbè. Ma con la convocazione della commissione in aereo privato a Ibiza, no, devo ammettere. Piaciuto, almeno è una maniera per riderci sopra. Che ma sì, che è il modo, l'unico modo per trattare, no, ma è una faccenda che non è, non, no, ha, non deve avere alcun sopra interesse. Come la direzione del PD, meglio riderci sopra. Meglio io ormai ricevo gli insulti tutti i giorni, no, dai io PD. Ho applicato sulla direzione del PD quello che ha detto Renzi, sì, che ha detto questa cosa delle divisioni del PD interessa a 3 o al massimo 300 persone, io sono più per 3 che per 300 e quindi non ne parliamo, visto che noi parliamo, vogliamo parlare di cose che interessano. Perché tanto persone, per cambiare, no? Ancora una volta ieri era sarcasmo suo, sì, contro obiezioni e non voto degli altri, quindi meglio non parlarne. Sono d'accordo, sì, con te, sono d'accordo, cioè, con te, sono d'accordo, diciamo il titolo è questo, sono d'accordo. Stanno litigati Franceschini e Renzi, ecco, non c'è niente da giocare, stanno litigati Franceschini e Renzi, sì, riassunto tutta la giornata. E la sintesi è, quando poi bisogna fare le liste ti faccio vedere. Questo è già un editoriale approfondito tutto sulla qua, questione, diciamo, io mi fermo al titolo. Tutto qua. In realtà poi a questo spirito PD si paga un prezzo amaro, perché le scelte che sta facendo il Parlamento di corsa, ripeto, quella maniera con cui è stato scritto il reato di tortura, abominio, causa sacrosanta ridotta a... Ieri il voto del Senato sull'estensione delle misure di prevenzione in fase cautelare, quindi non nel processo, a una nuova lista di reati molto diversi da mafia e camorra, e il ministro Orlando ha detto, dice Cantone che mi ha scritto una relazione lui e la sua commissione ad aprile, non l'ho letta, si vota così com'è. In Parlamento si rischia di fare carne di porco perché ci sono i pezzi del PD, ognuno del quale deve far vedere che ha l'agenda politica in mano. Io spero di no. Io per esempio non ho, ieri ho fatto la trasmissione, ma tentando di spiegare agli ascoltatori, con parlamentari del PD che sono convinti della scelta che hanno fatto ieri in Senato e il Presidente delle Camere Penali. Poi leggo sui giornali che qualcuno dice, no, il ministro Orlando, lo leggo nell'editoriale del direttore del Mattino di oggi, che nero su bianco dice, no, Orlando, il ministro della giustizia per questioni interne del PD vuole far vedere che lui è meno garantista di Renzi su queste cose. Ecco, io spero che non sia davvero questo, perché sennò si pagherebbero amari prezzi. Comunque ringraziamo Valentino dalla provincia di Verbania, che è lì con noi, è rimasto con noi. Valentino, buongiorno, grazie. Eccoci. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar. Grazie a voi. Che ci deve dire? Io volevo intervenire sul tema dei migranti. Sì. Io gestisco 3 centri di accoglienza, sono il coordinatore in provincia di Verbania di 3 centri di accoglienza. Sì. E volevo testimoniare il fatto che in effetti più del 50% dei ragazzi che arrivano non si fermerebbero in questo paese, soprattutto quelli di area francofona. E in effetti noi siamo qui a gestire un numero elevatissimo di ragazzi che sostanzialmente sono qui perché non hanno nessuna possibilità di muoversi. Sì. E non sento nessuno ricordare chi ha di fatto generato questa scelleratissima situazione, che fu il beneamato Maroni. Oggi i sindaci della Lega si divertono a dirci che non vogliono più migranti, ma quel benedetto trattato di Dublino fu firmato dal governo Berlusconi e dal ministro allora interni Maroni. E quel trattato di fatto ci rende impotenti perché nella misura in cui sbarcano in questo paese. Abbiamo raccontato mille volte, devono essere, come dire, esaminate le domande nel paese in cui sbarcano. E quindi... Poi la controbiezione europea, infatti avete fatto i furbi e quindi non li foto identificati, eccetera, eccetera. Esatto. Eccetera. Però lei che cosa dice, Valentino? Effettivamente, quando sente dire Macron, presidente francese, noi non li vogliamo perché l'80% sono migranti economici, anche dal suo punto di osservazione è così, visto che gestisce... Sono migranti economici, è inutile che... Cioè, io ripeto, in questi anni ne ho visti centinaia, e tra questi, lei considera che in un centro come il nostro ci sono ragazzi della Somalia, della Guinea, del Mali, del Senegal, del Bangladesh. Stabilire quelli che arrivano da zone di guerra è molto difficile, hanno situazioni complessissime nei loro paesi, ma non sanno neanche dove arrivano perché li mettono su un barcone e gli dicono vai da quella parte, per cui non sanno neanche dove sono diretti. L'unica cosa che sanno è che dovunque andranno avranno qualche, diciamo, situazione migliore rispetto a quella che hanno lasciato, per cui sulla migrazione economica tutti sappiamo che la maggior parte di loro sono migranti economici, ci mancherebbe. Dopodiché vengono da paesi dove i diritti sono opinabilissimi, perché il Gambia è un paese che, insomma, il suo dittatore per 20 anni ha fatto delle cose inenarrabili. La parte sud del Senegal non è vero che è controllata dal governo senegalese, se vuole andiamo avanti con le problematiche di ogni paese. Ma è chiaro. Però statisticamente volevo dire che per esempio io su 130 ragazzi ne occupo 60 tra attività di vario genere, che è la cifra effettiva di quelli che forse si fermerebbero in Italia, per cui se quel benedetto trattato fosse rivisto una volta per tutte, ma quella, quella della revisione del trattato di Dublino è un dibattito che poi dopo gli stessi, giustamente, che lei dice l'hanno firmato, sono i primi a dire cambiamolo, ma qua, insomma, sul cambiare il trattato di Dublino è in corso un grande dibattito europeo. Comunque, Valentino, la ringraziamo per la sua esperienza anche in prima persona lì. C'è Pierluigi da Treviso, buongiorno. Eccoci. Volevo chiedere perché il diritto della navigazione prevede che uno che è in difficoltà in mare vengono portato nel porto più vicino, non vengono portati in Libia, in Italia. Sì, si capisce molto poco, forse lei al viva voce. Comunque la domanda, ripeto io, perché, l'abbiamo detto tante volte, perché se il diritto del mare dice di portarli al porto più vicino vengono portati in Italia? Forse perché stiamo cercando di spiegare, abbiamo firmato un quadro di accordi per cui è così. E in più a questo si aggiunge che mancano i protocolli attuativi del protocollo internazionale di Amburgo, quello che in sintesi dice quello che dice lei, esattamente con alcuni degli stati che servirebbero a quel ruolo, quindi con la Libia che non ha un'autorità statuale, non c'è neanche con la Tunisia o con l'Egitto però il bilaterale italiano, quindi ecco, ci sono un po' di problemi di questo tipo qua, e quindi noi abbiamo accettato una cornice diversa da quella generale del diritto internazionale del mare. In ogni caso ricordiamo anche il numero di telefono, è 800 24 00 24. Come sapete noi trattiamo diversi temi, potete intervenire su tutto quello che volete. Su tutto, siete felici che Montepaschi è diventata di Stato? Siete felici del fatto che il governo voleva riscrivere integralmente il decreto legge sulla banca e ha rimediato una figuraccia e ha dovuto ritirare il testo? Tutte cose fondamentali che però sui giornali spariscono oramai, perché l'architettura di fondo del governo di queste banche in questo paese è diventata una cosa un po' da operetta. Però sì, do un giudizio molto duro e non è un giudizio sarcastico, perché siamo l'unico paese al mondo avanzato in cui una banca detta un decreto legge e in Parlamento ieri c'è stata la conferma fisica che non si può cambiarlo. Io lo trovo fantastico, finalmente il modo per uscire da questa finzione che è la sovranità popolare, che è abolita, e noi facciamo scrivere gli studi legali delle banche i decreti legge. E invece chissà, Oscar, se sono felici a Venezia gli agenti della polizia municipale, perché abbiamo letto di questo accordo che, detto in estrema sintesi, è così: gli agenti municipali avranno una tessera premio a punti. Lo so che è brutale messa così, non è proprio... sì, questi sono secondo me un po' di semplificazione colore giornalistico, non è che gli danno la tessera fragola, degli incentivi, però dei bonus in denaro che maturano alla fine dell'anno, il salario di merito si chiama, sì, man mano questo salario di merito il problema compone, è come, ecco, come si compone acquisendo dei punti se fanno degli interventi che sono previsti dal loro lavoro. Per esempio, sequestrano della merce contraffatta, ecco, tipo una borsa, è questo, acquisiscono 0,3 punti. Sequestrano degli accendini finti, sequestrano i paio d'occhiali, sgominano una banda di cliente prostituta che stanno contrattando. Bonus in natura? No, lì prendono un po' più di punti. Alla fine, quando ottengono un certo numero di punti, ottengono anche un bonus. Ci sarà di merito, ma la domanda che ti faccio, da come hai capito tu, perché poi in questo caso, ripeto, io metto sempre un po' il freno perché il colore giornalistico tende a prevalere, certo, non voglio incolpare nessuno, ma da quello che hai capito tu, perché io sono onesto, non l'ho capito con precisione e mi interessa capirlo e spiegarlo ai nostri ascoltatori, da quello che hai capito con precisione, in questo meccanismo dei punti ce ne sono alcuni dei criteri per cui più fanno incassare il comune con le multe più prendono punti, perché questa è la cosa che a me farebbe insorgere. Io credo che insomma è più il censimento delle attività da valorizzare economicamente, sono soprattutto il sequestro di attività per la legalità, quindi è una cosa sacrosanta. Infatti, però sai che in alcune parti d'Italia il comune diceva, per quando doveva recuperare le casse, cioè, chiamava i vigili, cioè, si va a ottimo percentuale, sulle multe no. Da come ho capito io sono soprattutto legate alla sicurezza. Però bisogna capirlo meglio. Sicurezza urbana. Bisogna vogliamo capirlo con Massimo Grella, che è il segretario generale della CISL Funzione Pubblica a Venezia, che un po' ha contrattato, insomma ha avuto una parte in causa in questa contrattazione. Lo ringraziamo, eccolo qua, Grella, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, ovviamente la semplificazione l'abbiamo fatta con le tessere a punti. Non credo che fisicamente abbiano proprio una tessera, però... Ecco, intanto risponda alla prima osservazione che ha fatto Oscar Giannino, cioè sono interventi delle agenti di polizia municipale sulla sicurezza e quindi sequestro di merce contraffatta, certo, legalità, o anche, voglio dire, se elevano delle multe e facendo incassare il comune, perché lì... magari dicendo più fai incassare, più multe fai, più ti diamo soldi, questo è quello... Allora, il risultato, diciamo, soddisfa Oscar Giannino, nel senso che... Tutto è teso al miglioramento dei servizi della sicurezza e non a fare economia sui cittadini facendo diciamo i cattivi nei confronti dei cittadini. Questo è un bene. E questo deve essere molto molto chiaro, perché nella strumentalizzazione che c'è stata... Purtroppo è trapelato anche questo ed infatti, è una notizia falsa. Siccome noi non avevamo capito, apprezzerà che le stiamo chiedendo di spiegare. Perché, ecco. Ho apprezzato molto il suo intervento, perché lei dice se si va in un senso molto bene, se si va nell'altro molto male. Quindi siamo d'accordo, concordiamo su questo. Certo. Ecco, però ci si chiede, e molti cittadini si chiedono, perché... servano degli incentivi, salario di merito, salario di merito, però voglio dire sequestrare una borsa contraffatta dovrebbe essere nello svolgimento dell'orario lavorativo dei vigili urbani una normale attività. Roma, mi dici qualcosa. Questa è l'obiezione che si fa, cioè perché dare dei punti e dei salari di merito per fare delle attività che sono già nel mansionario di un vigile urbano? Perfetto. Oscar Giannino conosce benissimo come si sia sviluppata la contrattazione integrativa nel pubblico impiego. No, per come lei mette la domanda, sembrerebbe retribuire due volte per una stessa cosa. Esatto. In realtà non è così. Esatto. Una parte di salario accessorio da qualche anno viene erogato attraverso la contrattazione cercando di premiare il merito. Oscar Giannino l'ha già ripetuto due o tre volte, giustamente, la qualità del servizio, il miglioramento del servizio, che viene individuato attraverso precisi indicatori, secondo i quali due agenti di polizia locale, uno che abbia raggiunto determinati risultati contro tutti i crimini, contro tutti i reati che avvengono nelle nostre città, e l'altro invece che ha un andamento piatto, a noi della circoscrizione pubblica sembra giusto che se oggettivi i risultati che sono interessi dei cittadini, quell'agente di polizia locale possa essere retribuito ulteriormente. Questo costituisce stimolo per il pubblico impiego in generale, perché altrimenti si va verso la pioggia e l'appiattimento. E noi come circoscrizione pubblica siamo contrari. Viva, posso dire? Viva il sindacato che su questo assume le sue responsabilità e tratta localmente in questo modo. Se ci fosse una diffusione dovunque di questo modello, secondo me sarebbe un bene per tutti. Ecco, ma come è stato contrattato? Perché ci sono proprio i punti, cioè il contrasto al commercio abusivo fa guadagnare 0,1 punti, l'arresto, la denuncia per attività criminale 1 punto, intervento contro il degrado sociale 0,3. Cioè c'è proprio una classifica, dei punteggi attribuiti a ogni tipo di intervento agli agenti di polizia municipale. Per onestà, vi devo devo dire che la Cisfunzione Pubblica ha sottoscritto, a differenza di tutte le altre organizzazioni, il contratto decentrato integrativo, che è il presupposto di questi progetti. Sui progetti, invece, non c'è stato un tavolo di contrattazione. Riteniamo infatti che sia stato, fosse stato più utile contrattare, ma devo dire che l'amministrazione ha recepito qualche nostra osservazione durante questo periodo in cui loro stilavano i progetti. Faccio un esempio: chi ha interesse a strumentalizzare e ad attaccare questa situazione ha parlato delle pause fisiologiche, ne avrete sentito parlare. Infatti i titoli erano fate pipì più vi premiano, più tenete la vescica, gli schiavi, capisci, per le strade di Venezia, per le calli, a dire scoppiate vigili urbani, ma una roba, ma come, cari colleghi giornalisti, ma pensate come potete fare titoli e sommari così? Ma cioè, io capisco che siamo tutti disperati, che non si vendono copie, ma vi rendete conto che è un torto fatto ai vigili urbani, a chi li amministra, a chi li rappresenta, alla ragionevolezza? Cioè, ma cosa viviamo? Nell'Italia dei tempi di Cronin e della prima industrializzazione selvaggia della Gran Bretagna? Vabbè, scusi la mia osservazione, però a volte mi rendo conto che anche fare il vostro mestiere è difficile da comunicare. Sì, la condivido, signor Giannino, perché la condivido assolutamente, perché purtroppo noi che stiamo cercando di fare un sindacato innovativo e per far uscire il pubblico impiego da quell'angolo dove è stato messo, da fatti reali che non neghiamo, accaduti e di cui si parla, ma anche da tanta mala informazione che c'è in giro, in realtà nel progetto il comune, unilateralmente, senza accordo, parla di riduzione di pause non fisiologiche. Sì. Intende dire il comune: quanto tu più stai sul pezzo in strada, nel caso della polizia locale, nel caso della polizia locale, tanto più tu potrai essere utile al perseguimento degli obiettivi. Però Grella, io non ho capito come sono stati stabiliti i punti e da chi. Cioè, come si è arrivati? Unilateralmente dal comune. Noi abbiamo contrattato il contratto integrativo, che è il presupposto, e il fondo che è la remunerazione dei dipendenti, per i quali è stato possibile trovare questi soldi per andare a finanziare questi progetti. E il comune ha attribuito anche dei valori a ogni tipo di intervento, a ogni tipo di azione, appunto. È costretto, ma questa cosa noi la seguiamo con molto interesse. Non siamo solidali con chi vuole strumentalizzare questa situazione, perché preferisce i premi a pioggia, come altrove è il passato e come anche in altre grandi amministrazioni si continua a praticare, purtroppo. Ovunque si mi perdoni il gergo sindacale, Giannino, mozione accolta la tua, esatto. Mozione accolta. E quindi noi crediamo che queste cose si possono migliorare, tutto è migliorabile, sempre, anche attraverso il confronto. Ma il pubblico impiego deve uscire dall'angolo dove è stato relegato e non deve aver paura di rappresentare dei professionisti capaci di raggiungere i risultati. Noi abbiamo bisogno ora di 10 anni almeno per far capire al popolo a cui cerchiamo di parlare che quelli che lavorano nei pubblici servizi sono persone capaci, molto molto professionalizzate, che hanno voglia di formarsi, che hanno voglia di erogare servizi. Sì. E per questo chiediamo il rinnovo contrattuale. Sì, e poi devo dire, non c'è la paura anche di dire che ci vuole appunto un premiare il merito. Che anelano a essere misurati, proprio perché rilanciano loro la sfida della professionalità. Io quando sento queste cose dico mi vengo a iscrivere. Ma io ricorderò sempre per tutta la vita l'immagine quando andai nel carcere americano, no? In Virginia nel 2000, e c'era il parcheggio per l'impiegato del mese nel carcere, che veniva stabilito non so con quali criteri, però in base ai criteri stabiliti da quel carcere c'era l'impiegato del mese che aveva diritto al posto riservato con scritto l'impiegato del mese, per quel mese eri tu. Adesso senza esagerare, questo è il simbolo paradossale. La questione è firmare prima gli accordi generali, poi si arriverà anche a condividere i criteri, perché poi un'amministrazione può indicare dei criteri perché magari preferisce i gap più gravi da colmare a suo giudizio. però bisogna contemperarli poi con criteri di ordine generale per la misurazione di tipo individuale e per unità amministrativa a cui si è addetti. Insomma, questa, la contrattazione di merito è uno dei passi fondamentali per costruire la sostanza e la forma di una nuova pubblica amministrazione. Io, chi lavora concretamente a questa cosa qui, lo considero un costruttore dell'Italia nuova che funziona. Comunque, va bene, vediamo come andrà a Venezia. Le polemiche non sono mancate, anche su questo ringraziamo Massimo Grella. Però ci abbiamo messo del nostro come informazione, guarda, no? Questa cosa di ridurre tutto a ridicolo è più forte a volte del nostro dovere, come devo dire. Noi qui spesso ironizziamo, però tante volte, Alessandro, lo dico a chi ci ascolta, cambiamo tono apposta sulle cose serie, no? Perché... un conto è l'ironia, altro conto è dire li premiano se non fanno pipì. Ma quanto mai? Ma come si può immaginare una cosa simile? C'è Laura da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma dunque, io volevo parlare ancora sull'immigrazione. Sì. Allora, mi sembrava un po' inutile rivangare sul fatto di chi ha firmato che cosa in Europa, nel senso che ci sono dentro tutti, no? C'è nominato Maroni, Alfano, Renzi, eccetera. E comunque sottolineo che probabilmente le condizioni sono cambiate. Cioè, i numeri di sbarchi che ci sono adesso non sono quelli... No, Laura, non c'è dubbio. A oggi siamo l'unico corridoio aperto, oggi il problema è quello. Per cui questo discorso lo lasciamo da parte. Il nostro commissario nella Commissione Europea per l'immigrazione l'altro giorno ha affermato, che tirandoci un po' le orecchie, che l'Austria, benemerita, accoglie il doppio di rifugiati rispetto all'Italia, rispetto al numero di abitanti. L'utilizzo dei numeri che si fa sempre in politica è una cosa veramente drammatica, dimenticando che appunto noi abbiamo il 90% di rifugiati economici. Immigrati economici. E qui mi viene in mente appunto che Macron, chissà dove era quando Sarkozy lancia in resta, è andato a liberare la Libia. Sì. No, Macron anche... non faceva politica allora all'epoca. Faceva poi il banchiere. Nelle responsabilità della storia. No, Sarkozy, Macron proprio è immune da quella responsabilità. Però il punto che ha colto Laura effettivamente è vero. Cioè, noi gestiamo tanti migranti economici, quelli che Macron non vogliono. Quelli che il resto anche dell'Europa non vuole. E sono la maggior parte, sono l'80% di chi arriva. E sul quale però bisogna avere anche il coraggio di fare un ragionamento, perché ha ragione chi se li è scelti, non quelli che li accolgono solo perché li dobbiamo salvare. Cioè, capisci? I grandi paesi li scelgono per qualifica addirittura. Lo so che questo è un discorso brutale, però sui migranti economici la questione non può essere la sola solidarietà. Io lo dico con tutta sincerità, anche se io sono il primo che numeri alla mano dice ne abbiamo bisogno, ma non di tutti quelli che vengono unilateralmente. In ogni caso, ci dobbiamo fermare, caro Oscar, con Lorenzo Nespoli. Tutti adesso la grande discussione adesso, ragazzi, diventa cosa regaliamo ad Antonio Donnarumma, mio Dio. Ah, sì. Salutiamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Chiara Compagnoni in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Ci troviamo lunedì. Ma io con me ci sono anche con voi oggi pomeriggio e domani mattina.